Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail unabusoalgiorno@radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog, che vedo seguite moltissimo sull'home page del Sole 24 Ore. Vedo che moltissimi cercano guardie e ladri. No, si chiama guardie o ladri, se lo trovate con un motore di ricerca, come la vecchia trasmissione che conducevo qui su Radio 24 fino allo scorso anno, altrimenti lo trovate attraverso un motore di ricerca. Allora, oggi parliamo di giovani ricercatori universitari e al rischio che questi possano magari lasciare l'Italia, già lo fanno in moltissimi, perché non trovano le condizioni necessarie e sufficienti, oserei dire, per restare nel nostro bel paese. Ma non lo facciamo raccontando le storie dei cervelli in fuga che ormai impazzano ovunque. Lo facciamo attraverso una notizia che mi ha molto molto colpito, che leggo dal Messaggero, giornale di Roma, di alcuni giorni fa. Recentissima la notizia, il Messaggero nelle cronache romane titola a 9 colonne, quindi voglio dire dà il massimo della visibilità possibile, titola così: Università la beffa dei fondi per i giovani ricercatori. Il Ministero lascia scadere i termini per valutare i progetti, quindi sono fermi 50 milioni di euro che erano stati impegnati ma non spesi. E questa è veramente una beffa, se così fosse atroce. Il Messaggero prende posizione perché dice il Ministero lascia scadere i termini, quindi è una presa di posizione durissima che lascia a spasso moltissimi ricercatori, i geni possibili, futuri, presenti anche del nostro paese. Allora, per cercare di capire se effettivamente stanno le cose così, io do il buongiorno a due ospiti che sono due ricercatori. Uno è Francesco Mauriello, buongiorno. Buongiorno. Che ha partecipato ovviamente a questi, al bando per questi fondi di ricerca bandito dal Ministero, e l'altro è Fernando Daniello, che è segretario e a capo dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca Italiani. Buongiorno Daniello. Buongiorno a voi. E poi abbiamo il professor Alessandro Schiesaro, che è il capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica. Buongiorno Schiesaro. Buongiorno. Allora, io direi di partire proprio da Daniello, che rappresenta la categoria dei dottorandi e dottori di ricerca italiani. Allora, il Messaggero ha esagerato, ha dato una notizia parzialmente sbagliata. Insomma, è veramente una beffa per voi giovani ricercatori quello che è successo. Veramente il Ministero volontariamente ha lasciato scadere i termini per valutare i vostri progetti? Ma guardi, l'informazione del Messaggero è assolutamente esatta. Se vogliamo ricostruire la storia molto brevemente, si tratta di questo. Nello scorso dicembre il Ministero ha bandito un programma cosiddetto FIRB Giovani, cioè Fondo di Investimenti Ricerca di Base per i Giovani. Questo programma prevedeva una scadenza, ovvero a fine febbraio 2009, e poi 3 mesi di tempo per la valutazione e quindi la conseguente graduatoria, che avrebbe in effetti determinato i quali sarebbero stati i progetti approvati e quali invece respinti. Ad oggi, siamo a ottobre ormai avanzato, noi non abbiamo più notizie dalla commissione di valutazione per questi progetti, e addirittura l'ultima notizia che avevamo riguardava le dimissioni del presidente della commissione di valutazione per questi progetti. Quindi insomma, mi sento di dire che la notizia è assolutamente fondata, e lei può immaginare che cosa significa per giovani ricercatori che partecipano a questo programma non avere notizie ormai da mesi, e quindi l'impossibilità di programmare in modo efficace le proprie attività e le proprie ricerche. Assolutamente, se così veramente è, e io non ho motivo di non credere alla collega Alessandra Migliozzi che ne ha scritto sul Messaggero, sarebbe una vera e propria follia, una delle tante follie italiane, ma poi sentiremo il Ministero. Mauriello, le chiedo, lei quale tipo di progetto aveva presentato e come è rimasto, voglio dire, di fronte alla notizia che nulla si sa di della valutazione dei progetti? Beh, io direi che essenzialmente noi tutti, diciamo, tutti i partecipanti al progetto Futuro in Ricerca siamo stati un po' sedotti e abbandonati, sedotti dall'idea, diciamo, questa idea innovativa comunque di lasciare ai giovani non strutturati la possibilità di accedere a dei finanziamenti per portare avanti le proprie idee e le proprie ricerche. abbandonate proprio perché, come è emerso, ad oggi non abbiamo nessun tipo, diciamo, di risposta, delle indicazioni da parte del Ministero. Ecco, lei che progetto aveva presentato? Io, quello della linea, diciamo, degli dottori di ricerca con età non superiore ai 32 anni. Ho capito, no, dico, ma tecnicamente, cioè, qual è il progetto che le ha presentato? Cosa, come voleva essere utile alla causa italiana? Con quale idea? Io ho presentato un progetto per la valorizzazione del glicerolo, che è una molecola, diciamo, di interesse, di altissimo interesse nella chimica attuale, perché è collegata alla produzione di biodiesel, quindi all'energia verde, a tutta, diciamo, quella parte di energie rinnovabili che sono di altissimo interesse oggi, non solo per l'Italia, ma per tutto il mondo. Assolutamente. Allora, Daniello, risponda in maniera molto franca alla domanda che ora le faccio, senza, come dire, andarci a nascondere dietro paraventi, ma quante pressioni ci sono dietro questi progetti? Vale a dire, lei ha uno sponsor politico, ha cercato di farselo passare magari attraverso qualche calcetto nel sedere? No, guardi, io non ho ancora presentato la domanda al bando FIRB perché non rientro nella categoria, diciamo, di dottori di ricerca. Allora, parli a nome dell'associazione. Sì, quanti calci nel sedere si cercano in questi casi? Ma guardi, francamente mi sembra no, onestamente, nel senso che le domande presentate sono 3.700. Ora, la notizia, io credo, sia il fatto che l'organo che dovrebbe decidere anche le modalità attraverso cui questi progetti vengono a essere selezionati è assolutamente fermo. Benissimo. Poi allora io la fermo qui, perché ovviamente la stessa domanda la faccio al professor Schiesaro, e quindi partiamo proprio da qui. Non sarà che tutto è fermo perché, come abbiamo anche letto recentemente, di denunce di ricercatori all'estero che erano stati contattati per valutare alcuni progetti che ci hanno rinunciato perché hanno detto talmente tante erano le pressioni politiche che, cara Italia, ma per piacere riprenditi i tuoi progetti, non mi mettere in mezzo. Allora, partiamo da qui, professor Schiesaro. Ci sono pressioni politiche oppure perché non riuscite a valutare questi benedetti progetti? Ma capisco che quello che le devo rispondere sarà molto meno divertente e emozionante. In realtà vorrei precisare una cosa: i fondi non sono assolutamente né estinti né cambiati. Mi pare che se partiamo con questo equivoco poi sia difficile andare avanti. No, ma che non siano. No, ma sono fermi, abbiamo detto. Fermi 50 milioni di euro. Ovviamente la notizia del Messaggero e anche il primo commento del collega è che questi fondi erano stati in qualche modo perduti dopo 3 mesi. Questo non è assolutamente vero. Beh, se però uno lascia scadere i termini per valutare i progetti, la conclusione logica è quella. Poi magari lei ci dice che non è vero. Il bando diceva che auspicabilmente si sarebbero concluse le procedure in 3 mesi. Purtroppo questo non è successo e certamente il ritardo è molto spiacevole e sgradevole, però certo, questo non ha comportato la perdita di nulla, se non purtroppo di un po' di tempo. Quindi i fondi sono lì e questi fondi verranno erogati. La commissione di valutazione non poteva essere scelta dal ministro perché il bando diceva che questa commissione doveva essere proposta dalla commissione FIRB che voi avete menzionato. Sì. Questa proposta è arrivata il giorno 8 settembre, la commissione è stata seguita poi dalle dimissioni del presidente della commissione stesso, i commissari stranieri sono stati contattati, hanno avuto tempo sino a domani, se ricordo bene, oggi o domani, per accettare l'incarico, e quindi la valutazione partirà appena queste accettazioni sono state ricevute. Quindi quello che lei ci sta dicendo è che praticamente c'è uno slittamento dei termini, questi soldi non verranno persi e ci sarà quindi la valutazione, dico bene? Anzi, la valutazione è già stata, diciamo, di fatto avviata, nel senso che i commissari sono stati contattati, noi ci auguriamo che dicano di sì. Si tratta di commissari esclusivamente stranieri, che da un lato, diciamo, una certa garanzia, diciamo così, di lontananza, dall'altro naturalmente bisogna avere la loro accettazione perché è un compito molto gravoso. Ecco. Mi permetta solo di aggiungere una cosa. Tutto quello che vuole. È notevolissimo e certamente, come dire, a nessuno fa piacere. Non pensavamo, e devo dire nessuno, anche fra i giovani colleghi che hanno fatto domanda, pensava di ricevere 3.700 domande. Questo ha colto impreparati un po' tutti e ovviamente gestire 3.700 domande non è come gestirne 7-800, che era quello che si pensava più o meno sulla base dell'esperienza di ricerca. Certo, questo magari la dice lunga sulla voglia dei giovani ricercatori italiani di emergere. Non metto in dubbio che all'interno ci sarà anche molta fuffa, ma comunque onore al merito di chi presenta questi progetti. E intanto io ringrazio lei, professor Schesaro, per le notizie che ci ha dato. Ringrazio anche Mauriello e vorrei concludere con Daniello. La soddisfa a nome dei ricercatori italiani la risposta che arriva dal Ministero? Guardi, io la valuto per quello che è, cioè il professore ci dice che i fondi restano lì e che nei prossimi mesi si procederà alla valutazione. Io sottolineo solo un aspetto, è chiaro che se mia posso anche essere soddisfatto, il punto però vero è che quando si è in una generale crisi di risorse per l'università italiana, innanzitutto le domande aumentano e questa è anche una delle ragioni per cui arrivano 3.700 domande e come dire, compatibilmente con tutte le notizie di corridoio io prendo anche un'altra notizia, che il presidente della commissione FIRB si è dimesso. Ora il punto vero è che in queste cose il ministero dovrebbe essere molto più attento a informare in modo molto più puntuale i giovani ricercatori, altrimenti poi si creano degli equivoci che comunque restano ancora in piedi, perché benissimo, è chiaro che siamo a ottobre e non è stata ancora individuata una scadenza precisa. Certo, questo infatti è una pecca solitamente proprio della burocrazia italiana, ben venga comunque l'impegno e la volontà da parte del Ministero di cercare di risolvere il problema, che ovviamente noi non abbandoneremo, lo dico a tutti e tre gli ospiti che ringrazio, saremo pronti a riprenderlo se passeranno mesi senza che si veda alcuna sorta di notizia favorevole. Quindi grazie in regia a Pietro Lacorte, in studio ad Antonella Migliaccio e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.